Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Tracce di Cinema e di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9 di questa radio libera e indipendente, senza padroni e senza pubblicità, dal 1977, che sta per compiere i suoi 40 anni fra poco. Poco, manca ancora qualche mese. Insomma, dai. Pochi mesi. Grandi festeggiamenti sono previsti. Bene, come ogni giovedì, o quasi, sono le 15.03 e inizia questa trasmissione che cerca di parlare un po' di cinema, un po' di musica, ascoltare le sonorità dei film e raccontare qualcosa su di loro. Oggi parliamo di un vecchio film, ascolteremo la sua colonna sonora. Fede, un film di Lars von Trier. Beh, fine anni 90, cioè sì, non è lontanissimo. 96. Anche 96. Se ormai il tempo passa, è vero, sono 20 anni. Eh sì, piuttosto vecchiotto, ma insomma non è il primo film che noi insomma affrontiamo che insomma vecchio. Beh, abbiamo fatto anche una puntata con i classici, per cui siamo andati molto indietro nel tempo. E a proposito del film, mi viene da chiederti: com'è il tuo mare? Il mio mare è calmo. È calmo. Il mio no. No? Il mio no. Le mie onde sono mossissime e questo ci porta al titolo del nostro film. Che stupida che sono. Le onde del destino. Gioco sempre, ma insomma giocare è bello. Diciamo essere... calmo increspato il mio. Vedi, allora non è così tranquillo. Sì, ma è tranquillo sotto. Sì. È solo un po' increspato dal vento in superficie. Vabbè, bello però, bella immagine. Ebbene, insomma, Le onde del destino, appunto. 1996, Lars von Trier, grandissimo. Io sono una sua grande fan, mi sta molto simpatico e abbiamo un sacco di cose da raccontare su di lui. La musica è molto particolare, sono tutti brani degli anni 70, scusate. Stranamente, al contrario di quello che dovrebbe essere il cinema di von Trier, che segue il manifesto di tutta una serie di regole del 95, in cui ci sono tutta una serie di regole per le quali bisogna fare e si fa un film. In questo film la regola della musica, che è diciamo una delle regole di Dogma 95, non è stata seguita, ma poi ne parleremo meglio. Ne parleremo meglio anche perché in questo sta la continua provocazione di Lars von Trier, anche nel contraddire il suo dogma un minuto dopo, per cui va preso per quello che è. Anche perché poi insomma io adesso ho un po' studiato un po' meglio la sua storia cinematografica, insomma l'ha un po' tradito un po' sempre, a parte in Idioti. Però vabbè, poi andremo un pochino più in profondità della questione. E in questo film la musica introduce i capitoli, perché questo film è diviso in capitoli, 8 capitoli più un epilogo, e ad ogni capitolo è legato un brano, e quindi noi seguiremo una volta tanto proprio l'ordine dei brani che sono proprio così nel film. We'll be right back. E questi erano i Motte de Hoople e il brano si intitolava All the Way from Memphis, un singolo del 1973 di questo gruppo, che fu proprio un gruppo storico in Inghilterra, attivo negli anni 70. Furono considerati il più importante gruppo live rock dell'epoca. Ai loro concerti si vedevano, Fede, artisti concorrenti quali Led Zeppelin, Rolling Stones e i Free. Si narra anche di una rissa tra i Motte de Hoople e i Led Zeppelin. Io ricordo, cioè, a quello che so io, la traccia più celebre loro è quella con Bowie, All the Young Dudes. E infatti la storia di questo gruppo è strana, perché a parte che di loro esiste pochissimo materiale video, e quindi insomma sono praticamente così introvabili le loro storie, insomma, dal punto di vista proprio di filmati, eccetera. Però loro nascono con il nome di Silence nel 69, però hanno una storia un po' strana, nel senso che hanno un grande successo dal vivo, ma non riescono a vendere nulla o quasi, e delusi dai loro insuccessi di vendite, nonostante il tutto esaurito ai concerti, stavano per sciogliersi. Quando un loro accanito fan, il famosissimo David Bowie, si propose loro come produttore insieme al chitarrista e arrangiatore Mick Ronson, e inizialmente Bowie offrì ai Motte de Hoople il pezzo Suffragette City, che però loro rifiutarono perché lo considerarono che non adatto al gruppo, e quindi invece venne accettata poi All the Young Dudes, che diede il nome all'intero album, che è un singolo del 1973, e venne così pubblicato all'interno del loro album Motte. Io avrei preferisco poi Suffragette City. Sì, ma insomma a me piacciono tutte e due. Vabbè, insomma, poco importante questo. E tra l'altro Motte viene considerato uno dei loro album migliori, e tra tutte proprio questo brano, ecco, che è proprio considerato un inno al rock. Invece di questo film è stato detto che è un film solo per intenditori, per cinefili, per coloro che guardano film perché non hanno e non per coloro che guardano film che non hanno una vera passione. Io invece lo trovo un film per tutti, un melodramma proprio anche un po' estremo, però una grandissima storia d'amore, che fa parte della trilogia del Golden Heart, così chiamata, del cuore d'oro di Lars von Trier, che comprende appunto Le onde del destino del 1996, Idioti del 1998 e il bellissimo, sublime Dancer in the Dark, che io pure ho anche amato tantissimo. Il tema portante di questi tre film è il tema personale dei protagonisti, è il dramma personale, scusate, dei protagonisti, che si consuma nonostante le loro buone intenzioni. Infatti la nostra protagonista Bess viene descritta dal suo medico come malata di bontà, perché poi insomma nella storia lei si dedica completamente, anche umiliandosi, a questo grande amore nei confronti del suo compagno, di suo marito, e appunto insomma questa trilogia ha questo filo conduttore che è proprio quello del dramma degli animi dei protagonisti, che insomma si avvicendano in questi tre film. Io ero molto ipnotizzato dal tuo pacchetto, lo voglio vedere adesso, però, perché sono le immagini scioccanti dei pacchetti di sigarette. Sì, non lo guardiamo. Non lo guardiamo. Spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. hypocrites telling lies. The promises you gave from the grave of a broken heart. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. Python Lee Jackson insieme a Rod Stewart in A Broken Dream. Io stavo vedendo sul cellulare, tra la musica che porto sempre con me, ho un'unica traccia di Rod Stewart ed è un pezzo del 78, Do You Think I'm Sexy? Beh, insomma, è piuttosto brutta, direi di sostituirla con questa che invece mi sembra un gran bel pezzo. Lo so, vedi. Un gran bel pezzo, lo voglio fare mio, lo voglio condividere con voi con queste parole. In the between days, the hours. Ricapitoliamo. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine. Mi sento proprio perfetta. E beh, è veramente un bel testo, insomma, lo sto leggendo adesso, ma è proprio bello. Ma mi è piaciuta anche la canzone tanto. Ti sei quasi commossa. Sì, è molto bella con questa voce di Rod Stewart, che secondo me non è tra i miei insomma cantanti preferiti, però devo dire che c'ha questa voce così un po' roca rotta in questo molto pezzo. Molto calda. Bella, proprio bella, sì, mi piace. Che diciamo di loro due, qualcosa? Allora, questo brano è del 1968, c'è una storia buffa di Python e Lee Jackson, appunto, in cui c'è la voce ancora di uno sconosciuto Rod Stewart, ed è questo diventato poi il brano più famoso del gruppo, scritto da David Bentley, il leader, che però sentì di non avere le doti canore per la vocalità adeguata per incidere questo brano, quindi chiamò Rod Stewart. Ma siccome nessuno aveva un soldo ai tempi, Rod Stewart naturalmente accettò, perché il brano gli piacque moltissimo, quindi accettò subito. Ma quando chiese quanto sarebbe stato pagato, Bentley gli rispose che non aveva un dollaro per pagarlo, e che però gli avrebbe potuto regalare dei tappeti. e questa è una cosa che ha proprio raccontato Rod Stewart, il quale ancora dice questi famosi tappeti donatili dal leader dei Python, Lee Jackson, e disse proprio: questi erano gli anni 60. Poi i tappeti durano tanto, quindi forse ce li hanno. Ma magari erano pure di valore. Senti, poi passiamo al terzo capitolo, visto che le tracce. Sì, vogliamo dire due cose sul film? Come ti pare? Allora, le musiche si sono di Joachim Holbeck, cioè lui ha curato la colonna sonora, e questo film veramente intenso e commovente secondo me non si sofferma mai in lungaggini, e è proprio anche reso più dinamico da una delle regole fondamentali del Dogma 95, del manifesto, insomma, di questo tipo di cinematografia, che è quella di usare sempre la macchina a mano, e quindi molte delle scene che nel film sono mosse oppure anche sfocate, e spesso Bess guarda fuori, cioè proprio verso il pubblico, fuori dall'inquadratura, guarda verso il pubblico, che è una cosa che non succede mai al cinema, anzi quando un attore lo fa di solito sbaglia, ecco, e invece lei lo fa volontariamente, probabilmente perché queste sono state la direzione di questo maestro del cinema danese, e è talmente intensa. Lei ha quasi vinto un Oscar, è stata nominata ma poi non l'ha vinto. È talmente intensa quando, insomma, ci sono queste inquadrature che ti fa vibrare. Jethro Tull con Cross-Eyed Mary. Pensate un po', questo gruppo ha tenuto soltanto poco più di 3.000 concerti in più di 40 paesi, con una media di 100 concerti l'anno, e hanno iniziato piuttosto male. Pensate che ha raccontato lo stesso Anderson, Ian Anderson, il leader dei Jethro Tull, che all'inizio della loro carriera la loro musica non era un granché. E così i Jethro Tull tentavano ottenere ingaggi per poter essere chiamati per nuove serate. Dovevano ogni volta fingere di essere un gruppo diverso, e quindi settimanalmente cambiavano nome alla band. finché tali denominazioni poi erano di solito suggerite dal loro agente, ma una volta che un loro concerto fu apprezzato da chi gestiva un locale che furono reinvitati a suonare, i Jethro Tull dovettero tenere il nome della settimana precedente e quindi divenne proprio questo il nome del gruppo. Invece di questo film, anzi di questo regista eccezionale, io voglio enunciarvi, perché è importante saperli e conoscerli, le regole del manifesto Dogma 95, da lui insomma scritto e da lui sposato anche da altri registi. Diciamo che la cosa principale è purificare il cinema da effetti speciali e investimenti miliardari, e inizia così: giuro di sottostare alle seguenti regole compilate e confermate da Dogma 95. 1. Le riprese vanno effettuate nei luoghi reali, non si possono portare scenografie e oggetti di scena sul set. Se c'è la necessità di usare un particolare oggetto di scena, è necessario girare in un luogo in cui quell'oggetto si può trovare naturalmente. 2. Il suono non deve essere mai prodotto separatamente dall'immagine o viceversa. La musica non deve essere usata a meno che non sia suonata nel luogo in cui la scena è girata. 3. La macchina da presa deve essere sempre tenuta a mano. Il film non deve svolgersi davanti alla macchina da presa, ma è la macchina da presa a dover andare dove il film si svolge. 4. Questa è la cosa più difficile. Il film deve essere girato a colori. Se il set è troppo buio per permettere le riprese, la scena deve essere tagliata o al massimo si può attaccare una singola lampada alla macchina da presa. Buffo, no? E se pensiamo poi a tutta adesso, no? Tutte le varie cose per insomma per fare le luci, insomma, ottiche particolari e filtri non sono permesse. A proposito, questa è la regola numero 5. Il film non deve presentare azioni superficiali, omicidio, uso di armi o cose simili, non sono accettabili. 7. L'alienazione temporale e geografica non è permessa, deve essere evidente che il film è ambientato qui e ora. 8. I film di genere non sono accettabili. Fede, è importante, eh? Certo. 9. Il film deve essere in formato HDMI 35 mm. 10. Il regista non deve prendere credito per il suo lavoro. Su questo sono molto d'accordo e mi ricordo una persona. Cioè, non ci deve essere scritto un film di... Ah certo, ma un regia. Film collettivo. E poi inoltre, e qui finisce così: giuro che come regista non mi farò mai condizionare dal mio gusto personale, non sono più artista, giuro di astenermi dal creare un'opera perché considero il momento più importante dell'insieme, il mio obiettivo supremo è spremere la verità fuori dai miei personaggi e le mie ambientazioni, giuro di farlo con ogni mezzo possibile a costo di ogni buon gusto e di ogni considerazione estetica, così faccio il mio voto di castità. Ed era il lunedì 13 marzo 1995 e questo era il manifesto di Lars von Trier firmato da lui a Copenaghen. E non bastava la parola di gentiluomo, ma ci doveva essere proprio un giuramento. Certo. Ok. submerged, just go sleep. Turn the wider shade off. A Wider Shade of Pale, Procolarum, pubblicato nel maggio del 1967, scritto da Gary Brooker, Keith Reid e Matthew Fisher, il testo ermetico, questa melodia un po' ispirata a Bach, l'organo Hammond mitico e la voce da bluesman di Gary Brooker l'hanno fatta esplodere letteralmente quando è uscita. Pensate che sono state più di 800 le cover firmate dagli artisti per questo pezzo, da Annie Lennox a Eric Clapton, Michael Bolton, Buddy Richard, insomma, Joe Cocker, insomma tantissimi. E Joe Cocker non l'ho mai sentita, voglio... bella. Ed è stata inserita ovviamente in tutte le colonne sonore dei film possibili, da Tra Cielo e Terra del 1993, scusate, New York Stories, ovviamente il Grande Freddo che noi abbiamo. Eh sì, a proposito di film delle nostre puntate, in almeno 3-4 film di quelli scelti da noi è presente questa musica. Può essere, però non l'abbiamo suonata sempre. E poi anche nei 100 passi bellissimi di Marco Tullio Giordana e nel film Oblivion. Oh, questo ci porta, questo brano, al nostro ospite della settimana, Paolo Campana di See You Sound, che troviamo per la seconda volta. Paolo, ben ritrovato. Grazie a voi, buongiorno a tutti quanti e buon pomeriggio. Allora, intanto facciamo un chiarimento rispetto a See You Sound, anche perché a gennaio andrà in scena nuovamente. E di cosa si tratta? Chiariamolo subito a chi ci ascolta. Ma See You Sound Music International Film Festival è il primo film di cinema tematica musicale nato in Italia, che ormai ha raggiunto insomma una sorta di appeal internazionale. Siamo alla terza edizione, che sarà, come dicevi, a gennaio, dal 27 gennaio al 4 febbraio, 9 giorni quest'anno, ben 5 giorni in più rispetto alla seconda edizione, una nuova edizione fresca e ricchissima di novità. Ne parleremo sicuramente a gennaio a Visionari. Tornando invece ai Procolarum, è un brano che da un po' di tempo non sopporto più, quindi l'ho tolto dai miei brani che porto sempre con me sul cellulare, caro Paolo. Io non ho neanche il 33 giri, quindi però una bellissima versione disco. Stavo sentendo che c'è anche la versione Joe Cocker, la dovrò sentire. Senti Paolo, arriviamo alle Onde del Destino. Dicevamo prima del Dogma, Manifesto Dogma, di cui Ottavia ci ha letto tutti gli articoli. Un film come altri di Lars von Trier, ma forse questo più in particolare, un film piuttosto disturbante. Io l'ho accettato solo ad una condizione, nel senso, ho visto la protagonista come una raffigurazione dell'anima dell'uomo in generale, e quindi da questo punto di vista un'anima maltrattata in tutti i modi, umiliata in tutti i modi, ci può stare. Altrimenti, insomma, come figura femminile è veramente raccapricciante. Non so cosa ne pensi tu del film, Paolo. Ma in realtà tutti i film di Lars von Trier sono abbastanza conturbanti, anche perché vanno non solo a giocare su degli archetipi, ma a rompere dei tabù veri e propri. Sì. Questo film qua, di cui parli tu, che Leone del Destino, è uscito poi nel 96, in piena rivoluzione Dogma, ed è un po', se vogliamo, il primo film della trilogia del cuore, così sì. Si definisce, quel trittico di film che va dagli Idioti fino a Dancer in the Dark. E anche in Dancer in the Dark c'è una figura di donna molto disfrattata. Diciamo che la figura femminile nel cinema della Smontrio ci sarebbe solo da scrivere un saggio su questo. Eh sì. Senti, e più in generale rispetto alla sua figura registica, cosa ne pensi, Paolo? Ma come dicevo prima, è un film in piena rivoluzione d'oro, quindi in un certo senso si vedono la messa a punto, se vogliamo, di quelli che poi saranno i dettami del manifesto di Lars von Trier, lancia nel 1996 da Parigi, gettando in aria una serie di volantini con i punti del manifesto scritto sopra. È un film dove viene usata tantissima la camera a mano, che all'epoca aveva portato diverse, insomma, sentimenti anche di disapprovazione, ma è un film molto riuscito, perché riesce con questo stile molto quasi un po' sudato a stare talmente incollato ai personaggi che riesce a far emergere in tutta la loro sentimento, ecco. In questo è stato molto forte. C'è una famosa scena in cui il protagonista torna sulla piattaforma e abbandona l'amante dopo averla, cioè la moglie dopo averla sposata. Sembra che già l'elicottero è partito, perché la ripresa praticamente riesce a cogliere la protagonista che si aggrappa alla porta dell'elicottero mentre l'elicottero non è ancora partito. Insomma, questo per dare un esempio. Invece sulle musiche degli 8 brani che abbiamo scelti, sono tutti autori piuttosto noti e in almeno metà dei casi le canzoni sono le loro più conosciute, e quindi in questo, tra l'altro, la musica compare solo nell'intitolazione dei vari capitoli. È andato, sì, perché è un dettame del dogma 95, è che la musica può stare solo una condizione in un film, nel momento in cui solamente fa parte dell'azione, quindi l'unica musica che rimane nelle onde del destino è Blowing in the Wind di Dylan, eseguita da una band nella festa del matrimonio. Tutte altre sono utilizzate su dei cartelli che vengono utilizzati per inframmezzare con dei capitoli il film stesso. Sulla scelta comunque è andato piuttosto sul classico rispetto alle... È andato sul classico anche perché non dimentichiamo che il protagonista che viene dalla cultura anglosassone è un po' bisfrattato dal paese, no? La protagonista non è libera di sposarlo, e l'unica cosa che lei risponde all'atteggiamento un po' sospettoso del prete, di chi fa un po' una sorta di processo per questa richiesta di matrimonio, le risponde che è l'unica cosa, cioè la cosa che cosa ha portato lo straniero, cosa porta la nostra comunità, e lei risponde la musica. E la musica in un certo senso pervade tutto il film, anche se non la si sente, perché poi è quella che dà la stoccata finale al film, la musica delle campane che nelle chiese dei protestanti calvinisti non suonano perché non ci sono, ecco. Quindi, se vogliamo, è forte il senso che Lars von Trier attribuisce alla musica a livello anche proprio simbolico. E di Lars von Trier cosa ne dici della sua lunga parabola artistica? È un artista molto complesso, secondo me è uno dei registi più interessanti, a mio avviso, di questi ultimi 30 anni, per quanto riguarda tutta una serie di motivazioni. La prima è forse che ha sperimentato nuovi modi e nuove forme del cinema, passando attraverso tantissimi moduli estetici, ecco. Sì. E soprattutto ha una grande presa su quello che è, cioè proprio sui contenuti, perché va a lavorare su quelli che sono i cliché, gli archetipi, i tabù, in maniera molto provocatoria, ma anche molto molto interessante. Ecco, c'è tutta una questione sulla morale che è molto profonda. Sì, trasmissione da affrontare. Bene, Paolo, allora io ti ringrazio, un abbraccio e ci sentiamo prossimamente. Volentierissimo, un saluto a tutti voi e un abbraccio da Torino. Ciao. Oh, Ottavia,

for she's touched your perfect body with her mind. Leonard Cohen con Suzanne, anche questa è comparsa più volte tra le nostre colonne sonore. Voglia, voglia, non ne parliamo neanche, ma invece raccontiamo due cose su no, su me ne hai tirate fuori certe su Lars von Trier che vanno dette, perché è troppo carino. Sì. Allora, intanto quella che mi è piaciuta di più. Allora, a Cannes, quando è stato premiato, ha fatto tutto un discorso e poi a un certo punto, parlando proprio dell'animo umano e della cattiveria dell'animo umano, ha detto: capisco Hitler, capisco l'uomo che è pieno di male, certo sono contrario alla seconda guerra mondiale e non sono contro gli ebrei, ma in realtà non troppo, perché Israele è un problema come un dito nel culo e fa cagare, e quindi questo già ci piace di Lars. Bene, e poi, ed è stato chiaramente allontanato da Cannes come persona non grata dopo questa sua dichiarazione. Poi essendo figlio di, insomma, la sua famiglia erano tutti fautori del nudismo, insomma, aveva questa grande disinvoltura insomma con il suo corpo nudo eccetera, e quindi ha avuto un impatto anche sul suo lavoro, tanto che durante le riprese del film Idioti, dove c'è una famosa scena in cui tutti quanti i protagonisti si rincorrono tutti nudi, lui è arrivato sul set, Fede, completamente nudo, e ha voluto girare la scena completamente nudo. E poi ha il terrore di volare, e per ritirare la palma d'oro per Dancing in the Dark ha viaggiato in roulotte fino a Cannes, in una roulotte attrezzata, perché lui non prende l'aereo. Alcolista e depresso. Ah sì, dice anche, ha anche dichiarato di essere alcolizzato, ma che sta cercando di smettere. È depresso e ha avuto anche delle diverse difficoltà nel girare due dei suoi film, Malinconia e adesso mi sfugge l'altro, vabbè. Il suo vero padre non è quello che per cui è stato con cui insomma il nome all'anagrafe, ma è un ex datore di lavoro di sua madre, con cui decise appunto di fare un figlio per i suoi ottimi geni artistici. E poi questa pure bella di Spielberg: dopo aver visto Europa, Steven Spielberg gli offrì lavoro a Hollywood, ma lui rifiutò e disse: gli studios americani danno soldi ai registi per educarli a dimenticare il loro stile, nonostante fosse la ragione per cui li volevano scritturare, ha dichiarato. Ho sempre evitato quel destino facendo i miei film qui. Bisogna combattere il desiderio di fare un grosso film d'azione, bisogna evitare Batman. Più grosso è, peggio è. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my too young to be singing the blues. So goodbye, yellow little road, where the dogs of society howl. You can't. me to be found. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, questo è il titolo di questa traccia, della quale cosa diciamo? Della quale fa parte di un album che ha venduto pochissimo, 31 milioni di copie, e ha ricevuto soltanto 8 dischi di platino, proprio robetta. E tutte le canzoni di Goodbye Yellow Brick Road sono state composte in 2 o 3 giorni al Pink Flamingo Hotel di Kingston, su un piano elettrico, perché Elton John era voluto andare in Giamaica per registrare questo album, dalla quale poi dopo è dovuto scappare, perché era andato perché gli piaceva l'idea che i Rolling Stones avessero registrato lì Goat's Head Sup, ma lui è arrivato in questo studio dove tutto era così abbastanza precario, e soprattutto erano gli anni in cui in Giamaica si respirava un'aria pesante, un'aria tesa, perché la popolazione protestava contro la poverissima situazione economica in cui versava il paese. Quindi Elton John e la sua band se ne sono tornati negli scicchissimi Strawberry Studios in Francia, ma tutte le canzoni sono state proprio composte lì, ha raccontato Elton John, mentre il chitarrista Johnston ha ricordato di averlo visto scrivere canzoni nel tempo esatto in cui che a lui serviva per farsi un sandwich e se componeva un pezzo in circa 20 minuti andavamo da lui, e nel lasso di tempo che ci serviva per collegare gli strumenti e suonarlo un paio di volte, diciamo un quarto d'ora era pronto. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? On America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog, and as a sad thing bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on per traccia. Questo era The Funeral, l'epilogo, Life on Mars, David Bowie, la colonna sonora del Le Onde del Destino di Lars von Trier. Siamo alla conclusione. Sì, sì, questo è solo il titolo di una trasmissione televisiva, Fede, Life on Mars, in voga negli anni 60, perché la canzone racconta tutt'altro, è proprio un cut-up di personaggi, epoche, è proprio una critica alla società dei consumi. È veramente una canzone con un testo importante, di cui, parlando della giovane donna dai capelli, della giovane ragazza dai capelli color topo, alle prese con una piccola storia disgustosa fatta di incomprensioni familiari e di sogni di celluloide, dove però i film che divengono presto a saddening bore, una noia mortale, David Bowie dice: penso che si senta tradita, sia delusa dalla realtà, penso che pur vivendo una realtà deprimente sia convinta che in un luogo imprecisato c'è una vita che vale la pena di vivere e che sia amaramente insoddisfatta per il fatto di non avervi accesso. Noi invece ce l'abbiamo accesso e possiamo avere soddisfazione ascoltando questa radio piccola ma grandissima, libera dal 1977, senza padroni, senza pubblicità, che vi tiene compagnia 24 ore su 24, il cui sito internet è www.ondarossa.info e che il 31 ottobre farà una bellissima serata musicale di cumbia, Dia de los Muertos, serata a sostegno di Radio Onda Rossa con il Pince Perro, La Schiena del Sol, special guest Palomito, Elettrocumbia, Cumbia e Cumbia al Tropical al 360 gradi qui a San Lorenzo, proprio vicino alla radio, a Via degli Equi. Vi aspettiamo per ballare un po' di sana e bellissima cumbia suonata da questi tre grandi artisti. E vi aspettiamo e ci risentiamo giovedì prossimo. Prima però vi diamo le coordinate per sostenere la radio: potete mandare un vostro contributo al conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via De Voci 56, 00191185 Roma, e potete anche sostenere la radio attraverso il sito internet, dove ci sono tutte quante le modalità elettroniche. Fede, su sostieni, sull'home page, è tutto. Indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. chiudiamo con Child in Time dei Deep Purple, a giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16. time you'll see the light. I'm strong between good and bad. See the blind man shooting at the world. Let's fly, taking toll. You have, and you've not been.